Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Ieri sera abbiamo parlato di fotovoltaico e in particolare abbiamo cercato di capire come è fatto e come funziona un impianto fotovoltaico e la differenza fra le varie tipologie in commercio. È così emerso, per esempio, che c'è una sostanziale parità di prestazioni fra le due tipologie più diffuse, ovvero il cosiddetto silicio monocristallino e silicio policristallino, mentre qualche problema in più è emerso per quanto concerne il cosiddetto silicio amorfo. Questa sera vogliamo invece occuparci dei costi di questa tecnologia e, come previsto, quindi è tornato a trovarci per proseguire la nostra conversazione Marco Bianucci, ricercatore del CNR. Buonasera Bianucci. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Bianucci, i detrattori del fotovoltaico sostengono spesso che dopo decenni di ricerca il fotovoltaico costa ancora troppo. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che forse non sono abituati a guardare i numeri che il mercato ci dice, e non voglio parlare di risultati di ricerca tecnologica, ma guardiamo proprio il mercato. Allora, se uno va a vedere quello che è successo negli ultimi 5-6 anni, si rende conto che i costi sono crollati, cioè questo è un settore in cui non ha un senso fare delle valutazioni economiche prendendo i dati di 2 anni stazionarie, fa. Stazionarie, come se le cose non dovessero cambiare. No, qui stanno crollando, pensi che oggi si trovano celle in Cina e in India, che per fortuna si sono buttate in questo settore in modo massiccio. L'India in pochissimo tempo è diventato il più grande produttore al mondo di celle, e si trovano celle a meno di un euro a watt. Prezzi pronti sul mercato, come io qui un articolo di Photon, tanto per dire, ma ce ne sono tanti, insomma, articoli in questo senso, che parlano ad agosto dell'anno scorso di prezzi sul modulo, sul mercato di 1,70 euro. E oggi sono ancora meno. Quindi la cella, che è quel quadratino, diciamo che ci vogliono molte celle per costituire un pannello, la cella va sull'euro a watt. Sull'euro a watt. Il modulo arriva, montata sul modulo, si arriva a 1,07 euro a watt. Siamo comunque a prezzi molto bassi rispetto a quelli di qualche anno fa. Solo all'inizio dell'anno scorso erano il doppio, ecco. E così via. Cioè questo è un mercato in cui vale proprio la legge del raddoppio annuale, sì, sostanzialmente. O meglio, del dimezzamento annuale in questo caso. Sì, raddoppio del numero di volumi, diciamo, certo. Ecco, e dimezzamento dei costi. Non è proprio così, ma i valori quasi sono simili a questi. Quasi. E anche per questo che è vero che è ancora marginale il contributo, diciamo, all'approvvigionamento energetico nazionale del fotovoltaico. Però è un po' come quella legge del raddoppio: se mettete un chicco di grano sulla prima casella di una scacchiera, 2 sulla seconda, sì, 4 sì, sulla terza, sì, non batterebbe tutto il grano di tutto il mondo. Certo, no? Certo. Quindi, ecco, senta. Una cosa che però si osserva, a fronte di questi costi così bassi, spesso però quando la famiglia, diciamo, si reca da un installatore, i prezzi non sono scesi altrettanto, i prezzi dell'impianto chiave in mano non sono scesi altrettanto quanto sono scesi i prezzi dei moduli. Ecco, ci aiuti a capire oggi qual è un prezzo giusto, per esempio, per un impianto, diciamo, da 3 kW da mettere sul tetto, è la taglia standard per un'abitazione singola? Allora, io direi che conviene non andare dal primo che fa un'offerta, mettere più offerte in concorrenza tra di loro e farlo alla luce del sole, perché in questo modo si stimola poi a fare, diciamo, altri ulteriori ribassi, e si deve scendere sotto i 4 euro a watt. Questo non vorrei che poi, insomma, si arrabbiassero troppo quelli che installano, però io ho esperienza di impianti di quella taglia lì fatti oggi a meno di 4 euro a watt. E se 3,5 circa, per esempio. 3,5 potrebbe essere, e se valutate quanto costa, andate a vedere quanto costa un modulo, effettivamente il margine rimane. Cosa succede però? Io capisco anche chi installa, di fronte a un mercato così dinamico i problemi si creano, perché è difficile fare una valutazione sugli utili e sui margini quando non si sa tra 6 mesi se i moduli sono dimezzati, perché se io compro i moduli oggi e li installo tra 6 mesi, certo, rischio di perderci un bel po' di soldi. Esattamente, quindi quello che succederà, secondo le previsioni non solo mie ma di molti, è che qui sopravviveranno come al solito quelle strutture piuttosto grosse che hanno un grosso potere contrattuale nel comprare grosse partite di moduli e quindi avere una scontistica importante e che in più possono fare i conti complessivi su comunque un numero di installazioni così grande dove anche con margini ridotti poi i guadagni complessivi ci generano delle economie di scala, mettiamolo in questi termini. È un peccato perché chiaramente è una tendenza al solito, insomma, nella riduzione delle piccole entità, ma è inevitabile e è un grande vantaggio per il consumatore finale, insomma, l'utilizzatore finale. Ecco, senta, concluderei solo con due velocissimi dati. In Germania, mi pare, insomma, ormai si vendano sistemi completi anche sui 3 euro a watt. E mi pare ci siano importanti novità in arrivo dall'America, dove cominciano ad apparire sul mercato le nuove tecnologie fotovoltaiche. Ci dedicheremo una puntata sicuramente più avanti, però forse c'è un dato che vale la pena di dare. Sì, c'è un'azienda americana, ma insomma è molto nota, la posso citare, che è la First Solar, che produce moduli al telluro di cadmio, una tecnologia a film sottile, che produce ad un costo di meno di un euro a watt. Va bene, grazie Bianucci. Grazie a lei e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Bene, questo è davvero tutto. Mr. Kilowatt torna domani per parlare di futuro, ma un futuro molto molto prossimo. Parleremo di energy harvesting, ovvero di come convertire in energia il rumore. Buona serata.